Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. Dopo 4 giorni di lavori, la plenaria del Parlamento europeo ha adottato ieri la sua posizione sulla posizione del Parlamento sulla riforma della politica agricola, la PAC post 2022, che ora dovrà essere discussa con Consiglio e Commissione. Gli eurodeputati hanno introdotto nei 3 regolamenti della PAC norme per incentivare pratiche agronomiche verde, una risorsa di bilancio per far fronte alle crisi e sanzioni più severe in caso di infrazioni ripetute delle norme sull'ambiente, sul benessere degli animali, sulla qualità degli alimenti. Questa è l'estrema sintesi, naturalmente, di un lavoro ben più grande. Ci aiuta a fare chiarezza un europarlamentare che gli ascoltatori di Europa Europa conoscono, già 2 volte ministro delle politiche agricole, Paolo De Castro. Grazie di essere con noi. Grazie a tutti gli ascoltatori. Allora, pratiche agronomiche verdi, cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo anticipato quella transizione ecologica che il Green Deal, il Farm to Fork, la direzione di questa commissione Ursula von der Leyen ha lanciato. Vogliamo che gli agricoltori siano incentivati a pratiche più sostenibili, attenzione all'ambiente e al benessere animale. Ci può fare un esempio di una pratica verde sostenibile che dunque immagino finanzierà l'Unione Europea? Ma per esempio nell'ecoschema, in questa grande novità che introduce la nuova PAC, ci saranno tante misure. Lo Stato membro potrà scegliere quelle più adatte al proprio territorio. Chi vorrà fare una rotazione quadriennale, chi vorrà per esempio incentivare l'agricoltura biologica, chi vorrà ridurre la chimica in agricoltura. Tutte pratiche agronomiche che vanno nella direzione di una maggiore attenzione all'ambiente, di una maggiore attenzione al benessere animale. Che cosa significa riserva di bilancio per far fronte alla crisi? Questa crisi corrente o quella che vive a lungo ormai da anni l'agricoltura? Ma c'è, lo abbiamo visto oramai da anni, una volatilità dei prezzi sul mercato agroalimentare. Abbiamo bisogno di fornire strumenti innovativi ai nostri agricoltori per gestire le crisi, che possono essere sia crisi dovute ai cambiamenti climatici, quindi a queste situazioni climatiche drammatiche, oppure a crisi di mercato. Aver creato una riserva di crisi significa aver creato la possibilità per gli agricoltori di assicurarsi, fare fondi mutualistici, individuare strumenti di gestione del mercato per cui ritirare il prodotto quando in eccesso, insomma un pacchetto di misure che possono essere all'uopo utilizzate per venire incontro agli agricoltori. Onorevole De Castro, un altro aspetto è quello che riguarda le sanzioni. Voi avete scritto sanzioni più severe in caso di violazioni ripetute, ma le chiedo qual è la violazione più comune? Ma bisogna distinguere tra violazioni dovute a errori, diciamo, materiali, quindi per un problema burocratico, una dimenticanza, eccetera, e una storia. Altra storia sono quando le violazioni sono ripetute e quindi c'è un dolo. A quel punto non basta soltanto ritirare gli aiuti PAC, ma bisogna evidentemente punire chi sfrutta questa politica per altri fini. Più severe significa più controlli? Più severe significa sicuramente più controlli, ma anche multe più salate. Multe più salate. Adesso parliamo del tema del meat sounding, così viene chiamato. In estrema sintesi per gli ascoltatori, l'idea di chiamare burger o hamburger una polpetta non a base di carne. Allora, l'Europarlamento era molto atteso e la sintesi è di una non decisione, cioè salva il cosiddetto veggie burger. Allora, vi cito: delusione e rammarico da parte dell'Associazione Industriale delle Carni e dei Salumi, dall'altra parte delusione e rammarico perché, che dice il comunicato, di fatto si inganna il consumatore. Replica il mondo, diciamo, ambientalista, che dice se si scelgono i burger o le salsicce vegetali con motivazioni chiare non è perché si confonde tra il prodotto di origine animale e quello vegetariano. Comunicati dei partiti, la Lega no alla carne finta creata in laboratorio, la Lega continuerà a dare battaglia. Allora, Paolo De Castro rappresenta la sinistra, i democratici, prego. È sbagliato dire che ha vinto qualcuno. Diciamo che il risultato del voto parlamentare è stato un nulla di fatto, perché non è passata né l'interpretazione verde a favore del popolo vegetariano, né l'interpretazione contraria. Quindi io credo che allo stato attuale delle cose quel che serve è fare, come ha fatto la Francia, una legge nazionale che regoli l'utilizzo di queste terminologie. Allora la Francia l'ha bloccato, giusto? Il consumatore. La Francia l'ha bloccato. La Francia ha fatto una legge nazionale che ha dato chiarezza ai consumatori, quello che ha origine animale, così come funziona nel settore lattiero caseario, lo stesso deve valere per la carne. Quindi tutto ciò che ha origine e che richiama la zootecnia, l'origine animale, deve essere davvero di origine animale. Non confondiamo i consumatori. Non confondiamo i consumatori. Voi che posizione avete, dunque, come avete votato su questo punto? Noi abbiamo votato per l'articolo 165, cioè quello che chiedeva di non consentire l'autorizzazione dei termini hamburger o polpette, eccetera. Ma evidentemente la Commissione dovrà trovare un punto di negoziato, un punto finale per regolare questa materia. Finché però non lo farà la Commissione, allo stato attuale, col risultato del voto, io credo che sia opportuno che lo faccia lo Stato italiano, al pari di quello che ha fatto la Francia. Che, lo ricordo, dal 2018 ha vietato questa pratica, questa possibilità, quindi si può intervenire anche nel contesto europeo. Un'ultimissima domanda, complessivamente, Paolo De Castro, insomma, è una delle persone che ha più esperienza in questo campo, l'ho ricordato, due volte ministro, europarlamentare di lunga data, come si sta soddisfatto di questi sviluppi sulla PAC? Ma io penso che si debba essere soddisfatti. Dopo due anni di lavoro, in due legislature, la proposta della Commissione risale al 2018, abbiamo fatto un lavoro importante. Certo, ci potranno essere i delusi ambientalisti che volevano di più, ma non si può certo dire che con questa riforma non si stia facendo un passo avanti importante nella direzione di quella transizione ecologica. L'obbligo del 30% di misure agroambientali negli ecoschemi è un passaggio importante. E sì, poi fatemi dire che per la prima volta si introduce la condizionalità sociale. Questo è stato proprio un nostro emendamento, quindi sono particolarmente orgoglioso. Cosa significa? Significa che i lavoratori, bisogna che chi utilizza gli aiuti PAC, chi prende gli aiuti PAC, rispetti le norme sul lavoro. Basta con le regole contro i lavoratori, il caporalato, le regole sulla sicurezza del lavoro, sono tutti condizionalità che oggi verranno introdotte nella PAC, quindi solo chi rispetta le regole del lavoro avrà gli aiuti. Da oggi, diciamo, è un po' più possibile vivere di agricoltura, che è così difficile nel nostro paese? Beh, diciamo che la politica agricola è importantissima come tutela del reddito degli agricoltori, ma è evidente che c'è bisogno del mercato. In quest'epoca di Covid, con i problemi che abbiamo sul canale Horeca, sul canale della ristorazione e dei bar, eccetera, e i nostri agricoltori, i nostri produttori agroalimentari stanno prendendo una bella botta, diciamo, perché un quarto del mercato non c'è, e quindi non si può certo dire che sia un momento positivo. Però la PAC verrà in soccorso, non solo dando un aiuto materiale al reddito, ma anche cercando di creare condizioni per allargare i mercati, per essere più presente. Ma abbiamo salvato le norme sulla promozione del vino, abbiamo salvato le norme che aiutano tutte le indicazioni geografiche, quindi io credo complessivamente che possiamo essere soddisfatti. Un'altra tappa importante, poi naturalmente adesso bisognerà negoziare col Consiglio e la Commissione. Naturalmente, grazie a Paolo De Castro di essere stato con noi. Grazie a tutti voi, grazie. Altre notizie dall'Europa: l'opposizione democratica in Bielorussia questa settimana ha ricevuto il premio Sakharov, premio Sakharov 2020 ovviamente, per la libertà di pensiero. Giovedì a mezzogiorno il presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha annunciato in plenaria a Bruxelles i vincitori del premio a seguito di una precedente decisione della conferenza dei presidenti, dunque presidenti e leader dei gruppi politici. Il presidente Sassoli ha dichiarato: desidero congratularmi con i rappresentanti dell'opposizione bielorussa per il loro coraggio, la loro resilienza, la loro determinazione. Si sono dimostrati e continuano a dimostrarsi forti di fronte a un avversario molto più potente, ma ciò che li sostiene è qualcosa che la forza bruta non potrà mai sconfiggere: la verità. Quindi complimenti all'opposizione bielorussa, anche se aggiungo, abbiamo seguito, chi ascolta Radio 24 spero se ne sia accorta con attenzione quanto accade nell'est europeo a partire dai primi giorni di agosto, dal 9 agosto, quando ci furono le elezioni, tutto vero, il sostegno dell'Europa, l'Europa che non ha riconosciuto l'esito del voto, in una situazione che però pian piano consuma la protesta e l'opposizione. Domani sarà un'altra manifestazione, così come è stato in tutte le domeniche dal 9 agosto in poi, ogni volta un po' meno persone. Questo è l'effetto della pressione, della repressione, della fatica, insomma questa sfida per la libertà di espressione in definitiva nello spazio europeo è tutt'altro che conclusa. Adesso aggiornamenti per chi è in viaggio, poi ci risentiamo per la seconda parte. Europa, Europa. Ben ritrovati da Gigi Donelli al microfono, da Alessandro Schirano che realizza con me questa trasmissione, da Peter Bescappè in regia. Vi abbiamo dato una notizia dalla Bielorussia, dunque dall'Europa, che ha deciso di conferire il premio Sakharov, che di fatto è il Nobel per la pace e per i diritti in versione Unione Europea. Questa settimana ha fatto anche scalpore la decisione polacca di intervenire da parte del governo attraverso la Corte, di intervenire limitando fortemente il diritto di aborto. Commenti molteplici, vi segnalo quello di Donald Tusk, già presidente del Consiglio Europeo, già primo ministro polacco, che dice: decidere sul divieto di aborto nel pieno dell'epidemia che si sta diffondendo non è solo cinismo, e di più si tratta di malvagità politica. Così sulla decisione presa ieri dalla Corte Costituzionale, che ha definito incostituzionale l'aborto nei casi di patologie irreversibili e malformazioni del feto. Tusk ha ricordato che la maggioranza della Corte è composta da giudici non autonomi, perché indicati dal partito al governo di Jaroslav Kaczynski, diritto e giustizia. Questo sarà sicuramente uno dei temi, appunto, ovviamente in Polonia, ma alla lunga crediamo anche sul fronte europeo complessivo del dibattito. E adesso parliamo di economia circolare. Sul fronte dell'economia circolare l'Italia è al primo posto tra i maggiori paesi europei per quota di occupati, quasi il 2,1% del totale, superiore all'1,7% della media UE. Sono circa 870.000 le imprese interessate dai processi dell'economia circolare, di cui circa il 61% sono artigiani. I soldi ci sono per finanziarla, serve una politica più determinata. Questo emerge dalla conversazione che ora sentiamo. Silvia Bernardi ne ha parlato con Chicco Testa, presidente Fise Assoambiente, l'associazione che rappresenta le imprese della gestione dei rifiuti. Per raggiungere gli obiettivi europei per l'economia circolare, vale a dire il 65% di riciclaggio al 2035 di rifiuti urbani, aumento del riciclo degli imballaggi, limitazione all'uso della discarica, servono in Italia investimenti in impianti per circa 10 miliardi di euro, senza considerare gli investimenti in ricerca, innovazione, software, investimenti in materiali. Ma che cos'è l'economia circolare? Ce lo dice bene Chicco Testa, presidente di Fise Assoambiente, l'associazione che rappresenta le imprese della gestione dei rifiuti. L'economia circolare si basa sull'idea che tutto quanto viene immesso nel processo produttivo possa in un qualche modo essere riusato. Ancor di più, a monte, i prodotti dovrebbero essere disegnati e pensati in modo tale da poter essere riutilizzati o scomposti nelle loro diverse parti per poter essere riutilizzati. Ecco, questo è grosso modo il disegno dell'economia circolare, con lo scopo di ridurre il consumo di materie prime e quindi di ambiente. Il settore dell'economia circolare in Italia è forte, con un'alta capacità produttiva, 100 milioni di tonnellate di materiali riciclati, centinaia di aziende, un fatturato di 55,8 miliardi di euro e un valore aggiunto di 18 miliardi, pari all'1,1% del PIL. Le attività di riciclo, riuso e riparazione sviluppano 2,2 miliardi di euro di investimenti e un'occupazione di oltre 500.000 di addetti. Quali sono i fondi a disposizione e cosa serve per accelerare questo processo? Non ci sono specificatamente, ma non c'è bisogno di fondi pubblici. Sono tanti gli investitori, grandi e piccole aziende, pronti ad entrare in questo settore e a realizzare gli impianti necessari. Per fare economia circolare ci vogliono impianti industriali capaci di riciclare, di smontare i prodotti, di riutilizzarli. E purtroppo il problema, il collo di bottiglia del nostro paese è la mancanza di autorizzazioni, un processo autorizzativo lunghissimo e spesso che si conclude in modo negativo. Per il futuro immagina un cambiamento di rotta? Me la auguro, ma per il momento non la vedo. Il decreto semplificazioni, per esempio, che doveva risolvere in parte questo problema, è in realtà un pannicello caldo. Tutti parlano di modello Genova, il modello con cui si è costruito in 2 anni il ponte di Genova, ma in realtà tutte le imprese sono, e anche le amministrazioni pubbliche, sono prigioniere di processi autorizzativi lunghissimi e di movimenti di protesta che ormai si rivolgono a 360 gradi senza distinguere l'utile dall'inutile. Quindi è una scelta che spetta al governo, una decisione politica? Assolutamente sì, al governo e agli enti locali. Una decisione politica, bisogna che si capisca, che entri a far parte della cultura nazionale il fatto che fare economia circolare, transizione verso il green, implica la realizzazione di impianti, altrimenti sono solo chiacchiere. Giovedì, molti di noi, o piuttosto ieri mattina, venerdì, visto il fuso orario, abbiamo avuto notizia dell'ultimo scontro tra Donald Trump e Joe Biden, prima dunque del voto. Inutile ricordarvi che con Radio 24 seguiremo tutto quanto accade tra Washington e il mondo intorno a questo voto, ma adesso con Beda Romano invece parliamo di quali effetti, quali vantaggi o svantaggi potrebbe avere la vittoria dell'uno o dell'altro candidato. Allora, cominciamo subito. Intanto buongiorno Beda. Buongiorno Gigi, grazie. Trump o Biden, chi conviene all'Europa e perché? Risponderò con una risposta provocatoria e controversa. Forse all'Europa conviene Trump. E adesso ci devi dire perché. Ma conviene Trump in modo molto utilitaristico, perché bene o male questi ultimi 4 anni hanno contribuito a tessere l'Europa, a renderla più integrata, a reagire al mondo esterno, e al mondo esterno appartengono anche gli Stati Uniti. Chi vogliono invece, secondo te, gli europei? O meglio, è possibile immaginare o indicare nei 27 due schieramenti? È difficile indicare due schieramenti. Ho la sensazione che la stragrande maggioranza dei paesi presi come tali vorrebbero una elezione di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti. Però naturalmente all'interno dei vari paesi vi sono delle minoranze più o meno importanti, più o meno rumorose, che vedono con favore il rinnovo del mandato a Donald Trump. Mi hai fatto venire in mente i nostri amici polacchi. Sì, assolutamente, i polacchi sono tra questi, ma anche gli italiani. Un ultimo sondaggio pubblicato negli Stati Uniti dal Pew Research ha fatto notare come in Europa occidentale una fetta importante degli italiani ritiene che un rinnovo del mandato al presidente Trump sarebbe positivo. Quindi Polonia e Italia, ma passiamo a un altro aspetto, Brexit e la politica estera europea. Alla luce dell'addio, nemmeno tanto amichevole, di Londra, il Mid-Atlantic Ridge dunque è destinato a quella separazione che, attenzione, è geologica, quindi le zolle si stanno allontanando per davvero, ma molto lentamente. Ecco, questo movimento rischia di accelerare invece in senso politico? Ma ho l'impressione che con Brexit l'Europa perde naturalmente un trampolino verso gli Stati Uniti, e quindi ci sarà un contraccolpo, certamente. Il contraccolpo sarà particolarmente sensibile sul piano militare, direi, perché l'Europa perde un partner strategico in tutto quel settore militare di intelligence nel quale il Regno Unito è particolarmente importante. L'Iran è stato uno dei dossier più spinosi dei rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti. Allora, vabbè, diciamo, se vince Trump le cose continuano, lui le ha indicate molto chiaramente. Se dovesse vincere Biden, sarebbe l'inizio di un declino a questo approccio più unilateralista perseguito appunto da Donald Trump? Direi di no, per un motivo semplice. Ho l'impressione che stiamo assistendo a una forma di isolazionismo americano che è cominciata ormai 20 anni fa, è cominciata probabilmente nel settembre del 2001, quando gli Stati Uniti furono per la prima volta nella propria storia attaccati sul proprio territorio continentale da un'azione terroristica di grande importanza. Non credo quindi che Joe Biden cambierà enormemente le carte in tavola, quindi il rapporto come tale migliorerà, ma le differenze politiche saranno meno sensibili di quanto non si possa pensare. Compreso la continuazione di un disimpegno militare che era stato indicato, e mi riferisco alla NATO, alla presenza americana in Europa, che era stato fortemente cavalcato nei primi giorni del mandato di Trump? Probabilmente ci sarà una frenata, ma non dimentichiamoci che Joe Biden ha fatto campagna elettorale in questi mesi dicendo che bisognava comprare americano. Quindi anche in questo campo, anche nel campo puramente economico, Joe Biden si è dimostrato molto più nazionalista di un normale presidente democratico dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi. Grazie a Beda Romano. Grazie, arrivederci. È tutto per questo appuntamento con Europa Europa, da Alessandro Schirano, da Peter Bescapè in regia, da Gigi Donelli al microfono. Grazie di essere stati con noi, GR24, noi ci risentiamo la prossima settimana.